La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. È negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida in Dio, ma lui non si affida a terzi. Siamo schiavi del coraggio. Qualcosa cambia, ormai tutto sembra diverso. Se il mondo fa il finto onesto, lui tace e fa l'introverso. Ma un giorno spezza il lucchetto con cui si è chiuso in se stesso. Gridando al mondo sono pronto, che cosa mi sono perso? E non c'era niente in cui credere, intere giornate libere. Senza un posacenere, solo voglia di scrivere. Adolescenti che non cercano lavoro, voi parlate spesso dei giovani e troppo poco con loro. Ma qua non chiedono, impartiscono, pretendono e proibiscono. In questo mondo malato, un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fimi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come l'HIV, ce li ha nel sangue. Siamo gente di passaggio. Speranza che mi porti via d'acqua. Non ci sei, non ci sono. Segui la tua strada, tutto il resto si vedrà. Non ci sei, non ci sono. Cerco una speranza per andare via d'acqua.